Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per molto meno ai tempi di Berlusconi ci si stracciava le vesti. Noi siamo a un Parlamento al guinzaglio e con la museruola. Un inedito Vendola, care ascoltatrici, cari ascoltatori, che addirittura quasi rimpiange, non rimpiange esattamente, ma dice quasi era meno peggio con Berlusconi che non adesso con Renzi. È solo l'ultima accusa, diciamo, di atteggiamento dittatoriale da parte di Renzi nel suo procedere con le riforme a colpi di decreti, eccetera, eccetera. Ieri c'era stata anche la contrarietà della Presidente della Camera Boldrini. Iniziamo così, iniziamo piuttosto belli vivaci, ne parleremo di molte cose questa sera, naturalmente, come sempre, qui Effetto Notte, no? Le notizie principali della giornata, poi alcuni temi trattati in modo specifico. C'è una buona notizia che riguarda i conti italiani, poi invece cattive notizie sul maltempo, il sud addirittura delle frane a Ischia, un po' in tutta l'isola ci sono state due vittime, una in Campania in realtà e una in Sicilia. Ci occuperemo anche di nuovo del caso della piccola Yara, perché oggi c'è una novità che riguarda l'indagato, l'unico indagato, Bossetti. Ne parleremo direttamente col suo avvocato, che dovremo raggiungere. Poi ci sarà anche la pagina dedicata al calcio, però non è che per forza bisogna essere degli addetti, dei tifosi, degli appassionati, perché c'è questa notizia curiosa del primo ministro Tsipras, primo ministro greco, che ha deciso per le troppe violenze di sospendere il campionato calcistico in Grecia. È una cosa piuttosto fuori dal comune, ha un precedente, ne parleremo di questo. Insomma, come sempre, molti argomenti interessanti, non lasciate Effetto Notte per nessun motivo. Vi ricordo che per i vostri interventi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte direttamente e poi ci sono gli sms al 349-238-6666. C'è anche un altro argomento che sta molto salendo in queste ultime ore, che riguarda i vitalizi per quanto riguarda il Parlamento, i politici, le pensioni a coloro che sono stati indagati o condannati per corruzione o per mafia. Piuttosto agguerriti sono la Presidente della Camera Boldrini e anche il Presidente del Senato Grasso. Ci sono varie riunioni in queste ore. Sentiamo anche questo passaggio della Presidente Boldrini. Bisogna fare anche altre cose, come dire no, per esempio, al vitalizio per chi è condannato per mafia. E col Presidente del Senato siamo determinati ad andare avanti per arrivare a questa decisione, che è attesa e che è, a mio avviso, veramente necessaria. Quindi è una decisione attesa. Voi che cosa ne pensate a proposito di vitalizi dati a chi è stato indagato o condannato per reati di corruzione o di mafia? C'è Grasso, Presidente del Senato, che dice già la legge Severino lo prevede questo. Invece c'è il Presidente emerito, il giudice emerito della Corte Costituzionale Mirabelli, che dice in realtà no, va riformulata una legge. In ogni caso, cosa ne pensate? 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto andiamo a sentire quali sono le notizie principali del giorno. Conti pubblici, l'Unione Europea promuove la manovra italiana, ma per il commissario europeo Moscovici restano degli squilibri. Rai Way, l'offerta di Mediaset per l'acquisto delle torri della Rai, ma il governo avverte, l'azienda pubblica deve mantenere il 51%. Vitalizi ai parlamentari condannati per la Presidente della Camera Boldrini è una cosa inaccettabile. Il Presidente del Senato Grasso dice si possono abolire senza legge. L'omicidio di Yara, la Cassazione conferma il carcere per Bossetti, più tardi avremo l'avvocato appunto dell'unico indagato. Medicina, trapianto record a Torino di un bacino artificiale per battere un tumore su un 18enne, la prima volta al mondo. Maltempo, pesanti perturbazioni al sud, due le vittime, una a Ischia e una a Trapani. E per il calcio, Champions League, in campo questa sera ci sono le straniere e il primo ministro Tsipras, come dicevo, blocca il campionato greco per le troppe violenze. Partiamo quindi dalla buona notizia sui conti pubblici italiani. L'Unione Europea ha dato il via libera alla legge di stabilità, non ci sarà quindi nessuna procedura per l'Italia per quanto riguarda il debito, anche se il commissario europeo Moscovici avverte che comunque l'Italia resta una sorvegliata speciale. Dopo cercheremo di capire quindi quali sono gli aspetti positivi e quelli ancora, insomma, piuttosto in ombra. La Francia è stata invece rimandata, pensate. Per quanto riguarda invece la Grecia, stando a indiscrezioni del governo tedesco riportate dal quotidiano quotidiano Rheinische Post, la Grecia potrebbe ricevere già a luglio un nuovo prestito da 20 miliardi di euro attraverso il terzo salvataggio dal 2010. Ne sarebbe convinto il ministro delle finanze di Berlino, Schäuble, il quale avrebbe confidato agli esponenti del suo partito, della Democrazia Cristiana tedesca, che non si possono escludere nuovi aiuti perché è evidente che saranno necessari. E il presidente della Banca Centrale Draghi ha detto all'Europarlamento che la BCE è pronta a ripristinare la deroga sui bond greci se ci sono tutte le condizioni. Ora invece sulle questioni italiane, con la vicenda di Rai Way, dal governo arriva un alto là all'offerta di Mediaset. Dopo le polemiche e l'alto là del PD, Palazzo Chigi interviene per fare chiarezza sul caso Mediaset Rai Way, una vicenda che conferma l'apprezzamento da parte del mercato della scelta compiuta dal governo di valorizzare la società facendola uscire dall'immobilismo nel quale era confinata, si legge in una nota ufficiale, nella quale si ribadisce però come la privatizzazione preveda che il controllo di Rai Way resti saldamente nelle mani di Viale Mazzini con una quota di capitale non inferiore al 51%. La presa di posizione di Palazzo Chigi arriva dopo le dure critiche da parte del Movimento 5 Stelle, secondo il quale questa vicenda rappresenta l'altra parte del patto del Nazareno. Da sempre contraria alla privatizzazione di Rai Way, i pentastellati oggi hanno anche sollecitato un intervento dell'antitrust per bloccare la cessione a Mediaset di un patrimonio pubblico e scongiurare la creazione di un monopolio in un settore strategico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la politica. Matteo Renzi invia una lettera per convocare i gruppi parlamentari, ma la minoranza Dem contesta i contenuti, quindi il Presidente del Consiglio riunisce il PD venerdì prossimo per portare avanti le riforme sulla scuola, sulla RAI, sull'ambiente e sul fisco e lancia un monito alla minoranza. Vorrei che fiorissero più idee che correnti, dice, col massimo rispetto, aggiunge, per il doveroso dibattito interno al PD. Anche sulla corruzione per Renzi è la volta buona, ma ancora contestazioni da parte della minoranza. L'ex segretario Pierluigi Bersani contesta la convocazione e anche la proposta Mediaset su Rai Way con una battuta. È come, dice, se il Milan comprasse il 49% dell'Inter. Elisabetta Fiorito ha intervistato Bersani. Ma insomma, sono tutti temi di enorme rilevanza, è ora di discuterli con un po' d'ordine, no? Se si tratta di temi che riguardano il Parlamento, è giusto che i gruppi convochino e invitino il segretario. E quindi non facciamo finta di discutere. È ora di discutere. Senta, ma invece sulle correnti, l'appello che non vorrebbe correnti il segretario, ma vorrebbe magari più idee. Ce le abbiamo le idee. Per esempio sul fisco in un'ora sola 400 idee non ci stanno. O dirai, per l'amor di Dio. Ho fatto l'esempio, no? Benissimo, dico, il Milan compri solo il 49% dell'Inter. E poi facciamo il derby e vediamo come va. Però sulla RAI c'è anche la riforma, c'è stato questo battibecco con la Boldrini, voi chiaramente chiedete un disegno di legge e non un decreto? Assolutamente sì, io credo che bisognerà forse cercare di evitare un eccesso di decretazione, perché credo che sia ora che la politica prenda un pochino di spazio, perché non credo che noi possiamo andare avanti così con un decreto tutte le settimane, una fiducia tutte le settimane, un ostruzionismo tutte le settimane, no? E nel dibattito politico ci sono sempre in primo piano le tensioni intorno alla legge sulla responsabilità civile delle toghe che è stata approvata ieri sera. Appena approvata è già oggetto di correzioni e verifiche. Dopo il via libera alla nuova legge sulla responsabilità civile delle toghe, il CSM prende un impegno: controlleremo gli effetti. Le preoccupazioni della magistratura vanno ascoltate, chiosa il numero 2 di Palazzo dei Marescialli Giovanni Legnini, e le preoccupazioni riguardano sia la possibile pioggia di ricorsi, ora che il cosiddetto filtro è stato abolito, che un'alterazione dell'autonomia e indipendenza delle toghe. Ed è su entrambi i fronti che il Consiglio Superiore avvia un esame, messaggio questo sia per il Quirinale che per il Guardasigilli, disponibile, ha detto, a modificare una norma considerata dalla ANM dannosa soprattutto per i più deboli. Così riparte la mobilitazione per un possibile sciopero dei magistrati, fino ad ora escluso. A guidarla soprattutto Antonello Racanelli, di Magistratura Indipendente. In altri periodi si è spesso utilizzato l'arma dello sciopero, non si capisce perché in questo momento, dopo questi segnali che abbiamo avuto da questo governo, a partire dal taglio delle ferie, adesso con questo questa nuova legge non si vuole esprimere con energia una forte protesta. Certo, c'è da dubitare del perché non si voglia farlo. Sul fronte politico, se Serracchiani, PD, assicura che non cambiano i rapporti con la magistratura e i 5 Stelle, contrari come i leghisti alla norma, invocano analoga legge per i parlamentari. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E occupiamoci di corruzione. Via libera della Commissione Giustizia del Senato l'aumento delle pene. Secondo il disegno di legge del governo sarebbe punita da 6 a 10 anni, ma la discussione è stata poi rinviata la settimana prossima perché da più parti è stata denunciata l'irrazionalità del provvedimento. Troppa fretta propagandistica dal governo, commenta il presidente della Commissione Francesco Nitto Palma di Forza Italia, l'ha intervistato Raffaella Calandra. Tutta una serie di anomalie del sistema sanzionatorio. La pena per la corruzione sarebbe più elevata rispetto alla pena per la corruzione in atti giudiziari, che è un reato sicuramente più grave. Fate attenzione alla razionalità del sistema. C'è per un verso un atteggiamento propagandistico. Mi pare che ci sia un andamento a zigzag da parte del governo. Puniamo la corruzione da 6 a 10 anni, si può anche fare, ma poi devi modulare le pene dei reati similari di conseguenza. Io credo che ci sia l'esigenza di far vedere una rapidità nella risposta. Questo spot propagandistico non viene accompagnato da una seria riflessione sul piano sistematico penale. Poi vi dicevo, sempre in campo politico c'è questo dibattito sui vitalizi, un po' uno scontro, una tensione con Mirabelli della Corte Costituzionale. Grasso, Presidente del Senato, e Boldrini, Presidente della Camera, dicono questa cosa va abolita, i vitalizi, le pensioni per chi si è macchiato di corruzione o di reati di mafia va abolita, non serve una legge, c'è già la legge Severino che lo prevede. Che cosa ne pensate? Torno a chiedervi, c'è il numero per i messaggi, il 349-238-6666, e sempre lì per voi la pagina Facebook di Effetto Notte. C'è poi l'allarme del capo della polizia: con la guerra in Libia c'è un fattore di rischio molto più accentuato per l'Italia, così ha detto Alessandro Panza. Il nostro paese, insomma, sarebbe più esposto al pericolo di attacchi terroristici internazionali perché più vicino a teatri di guerra. Sentiamo Panza. La realtà criminale e terroristica che ci interessa ha caratteristiche particolari, cioè un fattore di rischio molto accentuato per noi. Prima di tutto perché i teatri di guerra sono molto vicini a noi, molto più vicini che il passato. Poi lo scenario e la complessità degli attori coinvolti. E poi c'è questo problema dei cosiddetti foreign fighters. Si conta che soltanto di combattenti che provengono dall'Unione Europea siano più di 3.000. E una buona parte di essi già sono rientrati. In Italia noi ne contiamo 60, di questi 5 sono proprio di origine italiana, mentre altri 2 hanno una doppia nazionalità. E siamo alla cronaca. Massimo Bossetti, arrestato lo scorso giugno con l'accusa di aver ucciso la 13enne Yara Gambirasio, deve restare in carcere. A deciderlo, al termine di una camera di consiglio iniziata dopo l'udienza a porte chiuse di questa mattina, è stata la prima sezione penale della Corte di Cassazione. Bossetti è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e tra poco, come vi dicevo, dovremo raggiungere l'avvocato di Massimo Bossetti. Per il maltempo che sta colpendo pesantemente il sud, ha provocato anche 2 vittime, una in Campania e una in Sicilia. Più tardi sentiremo quali sono le previsioni, piuttosto appunto pesanti per quanto riguarda il sud. Ancora in chiusura il calcio con la Champions. Questa sera non ci sono Dario Ricci, squadre italiane, ma ci interessa comunque. Sì, l'unica italiana, sappiamo bene, la Juventus, che ha vinto ieri 2-1. Ci interessa l'andata di queste, le ultime 2 gare d'andata degli ottavi di finale. Finora siamo intorno alla mezz'ora di gioco, sia a Leverkusen che a Londra, 0-0 tra Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Il Bayern ha colpito una traversa al 25esimo con Spajic e sta giocando decisamente meglio dei vice campioni d'Europa. 0-0 anche a Londra, all'Emirates Stadium, tra Arsenal e Monaco. Grazie Dario Ricci, poi ci sentiremo più tardi sia per gli aggiornamenti sulla Champions sia per capire come mai Tsipras ha deciso di fermare il campionato di calcio greco. Intanto diamo un po' di spazio anche ai vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Note che al 349-238-6666. Mirella D'Ancona dice: vitalizi dateli a chi muore di fame, politici peggio dell'ISIS, uno schifo, nello schifo parlate d'altro. No, invece bisogna parlare allora di queste cose, sennò neanche si potrebbero commentare o sapere. Poi dice Fabrizio da Pieve di Cadore, è una vita che il Movimento 5 Stelle propone emendamenti contro i vitalizi ai condannati per reati gravi, mafia eccetera. Questi emendamenti vengono sistematicamente bocciati dalla maggioranza, ma si è svegliata oggi la Boldrini, ma, insomma, non so se si è svegliata oggi o se è un po' che ne parla, cioè, l'importante comunque, meglio tardi che mai. E poi dice Clotilde ha ragione, Vendola contro il pregiudicato, tantissimi giornali erano lì con i fucili puntati, invece con lo spregiudicato, quindi tra Berlusconi e Renzi, dice, sono sdraiati e proni. Questi i vostri commenti per il momento, continuate a scriverli, intanto aggiorniamo chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora vi chiedo cosa ne pensate della possibilità di eliminare i vitalizi per i politici corrotti o che si sono macchiati di altri reati gravi come reati di mafia. Qualcuno che non si firma, almeno firmatevi, sulla pagina Facebook di Effetto Notte è quasi automatico, sugli sms al 349-238-6666, mettete un nome, uno pseudonimo, un nome d'arte. Dice questo ascoltatore o ascoltatrice, sono favorevole ovviamente, ho anche firmato insieme a migliaia di persone una petizione online. Continuate quindi con i vostri commenti, intanto vi riepilogo se avete acceso la radio in questo momento, non tutti, lo ripeto, stanno dalle 21 sino alle 22, ma cercate insomma di restare informati tutto il tempo, le notizie più importanti di oggi. Mediaset vuole le torri di Rai Way, ma è stop da parte del governo. E poi l'Unione Europea promuove la manovra italiana, ultimo avviso però a Parigi, e il ministro dell'economia Padoan dice questo è il premio per le nostre riforme. Il tesoro intanto fa cassa con l'Enel, poi capiremo perché. Binomio Grasso Boldrini, aboliamo i vitalizi ai corrotti, dicono, bisogna revocare gli assegni in base alla legge Severino. Renzi chiama raccolta il PD, voglio idee non correnti, tensioni dentro il partito su Rai e decreti, e Bersani dice siamo ormai al limite. Putin attacca Kiev sul gas, il taglio est, dice, del gas puzza di genocidio. Continuano purtroppo le tensioni gravissime in Ucraina. La Roma, per quanto riguarda il calcio, ritrova domani il Feyenoord a Rotterdam, nuove minacce da parte degli hooligans. Intanto il primo ministro Tsipras in Grecia ferma il campionato, dice troppa violenza fra i tifosi. Il maltempo, nuova frana a Ischia, un morto travolto mentre controllava i danni della pioggia. E poi questo trapianto record che c'è stato a Torino a un ragazzo di 18 anni, per curarlo da un tumore è stato innestato un bacino, trapiantato un bacino artificiale, la prima volta al mondo. Occupiamoci adesso subito della buona notizia che riguarda l'Italia. È arrivato oggi il verdetto da parte dell'Unione Europea sui conti pubblici italiani. Ebbene, la legge di stabilità è stata promossa. La Commissione Europea ha quindi deciso di non aprire una procedura contro l'Italia per il nostro debito dopo l'analisi della legge di stabilità da parte del Collegio dei Commissari. E il Presidente e il Ministro dell'Economia italiano Padoan ha detto bene, quindi questo via libera alla manovra è un risultato non scontato. Ne parliamo con il nostro Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti. È una buona notizia, anche se proprio ieri c'era stata la Corte dei Conti invece in casa, diciamo, che diceva ma qui la legge di stabilità bisogna vedere, ci sono delle previsioni che non sono concrete sulla spending review, sulle coperture, quindi come stanno le cose? Beh, stanno che sì, l'abbiamo scampata, ma rimaniamo comunque un paese sorvegliato speciale. Come dice Moscovici. Per la verità però si è respirata un'aria diversa oggi in questi verdetti della Commissione Europea targata Juncker, diciamo, perché l'aspetto politico ha prevalso obiettivamente sulla rigida interpretazione dei trattati, come invece era apparsa chiara nell'ultima fase della commissione targata Barroso. Le notizie importanti sono queste, che l'Italia è riuscita a portare a casa un risultato positivo e non viene sanzionata, non gli vengono richieste ulteriori correzioni del deficit e soprattutto del debito, che è il nostro grande problema. La Francia, che è il vero malato in questo momento dell'Europa, Grecia a parte naturalmente, non è stata sanzionata esplicitamente, pur avendo un grosso sforamento nel deficit, è stato solo invitata a una correzione ulteriore e rapida nel giro dei prossimi mesi, se non per un paio di anni. Ma la cosa più importante è che c'è qualcosa anche per la pagella tedesca, il vero secchione dell'Europa questa volta è stato ripreso, perché si è fatto troppo gli interessi suoi personali a discapito dei partner europei. A cosa mi riferisco? Riferisco al fatto che la Germania ha da molti anni, ahimè, superato il margine del surplus commerciale così che come previsto dai trattati europei, cioè il 6%, pari al 6% del PIL. Non devi superare il 6% del PIL nel calcolo tra l'export e l'import. Quindi la Germania hanno esportato invece, troppo? Hanno esportato tantissimo e non importano nulla. E questo naturalmente per i partner commerciali, noi per primi che siamo tra il primo partner in diversi settori con i tedeschi, ne subiamo le conseguenze. Oggi l'Europa lo ha detto formalmente in queste statement che sono stati annunciati nel pomeriggio, che la Germania deve fare un grosso sforzo per migliorare e abbassare lo squilibrio del surplus commerciale e soprattutto deve fare di più sul fronte degli investimenti. Vuol dire condividere un po' di più questa sua fase di locomotiva d'Europa, anche se un po' calante per la verità, con gli altri partner, perché se investe la Germania naturalmente assorbe più import di semilavorati e altri prodotti che gli forniscono i partner europei, noi per primi, ripeto. Quindi questa cosa che è stata messa nero su bianco, forse per la prima volta da qualche anno a questa parte, mentre la situazione perdurava da qualche anno a questa parte, è molto importante. L'altra considerazione da fare più generale è che naturalmente un certo, direi meltemi, il vento greco è soffiato oggi su Bruxelles, perché è chiaro che non c'erano gli estremi per formalizzare giudizi troppo severi o imporre ulteriori correzioni esplicite e gravose sulle performance dei vari paesi, visto che il problema greco ancora è in fase di soluzione. L'Europa in questo momento è evidente, non ha nessuna intenzione di aprire un altro fronte, magari per facilitare le aspettative negative della speculazione internazionale, che non vedrebbe niente di meglio che non riattaccare di nuovo i paesi deboli dell'area euro per appunto attaccare nel lungo periodo l'euro stesso. Quindi è una giornata comunque positiva, ma con i suoi chiaroscuri come sempre. Senti, e questa cosa dell'Enel, una notizia che è arrivata poco fa, tu hai avuto modo di... Sì, con l'Enel naturalmente il governo punta a fare cassa, vende il 5-7%. Quindi una parte la privatizza in parte? Sì, come era stato annunciato, peraltro c'era una timeline molto precisa annunciata qualche tempo fa dal comitato privatizzazioni che aveva messo in campo il ministro Padoan, si aspettano in cassa i 2,2 miliardi e sono naturalmente... benvenuti, è evidente, per le casse dello Stato. Sei sempre benvenuto anche tu, caro Alberto Rioli. Grazie. Adesso ci salutiamo, ti lascio chiudere il giornale. Grazie, ciao, buonanotte. Ciao Alberto. Europa 24 notte. Visto che avevamo a che fare con l'Unione Europea che ci ha promossi, almeno per il momento, restiamo sull'Europa, perché c'è una dichiarazione di Cécile Kyenge, ex ministra dell'integrazione, vi ricordate, che agli altri europarlamentari del PD ha appena lanciato la campagna con l'hashtag Stop Boko Haram per la Nigeria, il movimento integralista islamico di terroristi che, sapete, fra le mille cose nefandezze che hanno compiuto, hanno rapito le famose 200 studentesse ormai quasi un anno fa, di loro non si sa più niente. Bene, ha lanciato questa campagna la Kyenge affinché l'Europa porti avanti un'azione politica costante contro ogni forma di radicalizzazione e di terrorismo, perché, dice la Kyenge, non ci sono luoghi nel mondo in cui si può tollerare la violenza fanatica di gruppi estremisti, e l'Unione Europea, dice, sembra aver dimenticato la barbarie di Boko Haram in Nigeria. È un orrore che non conosce fine. È terrore, panico, orrore, strage. Stupri come armi di guerra. Intolleranza portata all'estremo. Violenza, violenza, violenza. Nelle idee come nelle azioni. Questo è Boko Haram. L'Europa non può accorgersi dei problemi solo quando la colpiscono al cuore. Il cuore dell'Africa è colpito dallo stesso fondamentalismo terrorista ed assassino. Uniamo le forze. Questa minaccia richiede quindi una risposta collettiva, effettiva e decisa, a cui anche l'Unione Europea, per storia e valori, non deve sottrarsi. Saremo vicini all'Africa, aiuteremo la Nigeria in tutti i modi. Ci mobiliteremo come ci siamo mobilitati per Parigi e useremo tutti gli strumenti di politica e di cooperazione internazionale. Insieme fermiamo Boko Haram. Stop Boko Haram. Stop Boko Haram. Stop. Stop. Stop Boko Haram. Non esistono morti di serie A o di serie B, dicono gli europarlamentari che sostengono la campagna contro le violenze perpetrate da Boko Haram, l'organizzazione terroristica jihadista diffusa nel nord della Nigeria, e che con questo video vogliono sensibilizzare le istituzioni europee affinché sostengano con più forza la lotta contro ogni forma di terrorismo. Una delle promotrici della campagna è l'europarlamentare Cécile Kyenge. È una crisi dimenticata che sembra lontana, ma in realtà è molto vicina a noi. perché è collegata sia nello stile di violenze, di come vengono fatte le violenze, sia proprio nelle rivendicazioni del califfato islamico di questa parte, uguale a quello che sta succedendo nel Medio Oriente, in Libia, e quindi è come se fosse una catena che continua e penetra anche in quella parte dell'Africa. E quindi quella che noi pensiamo fosse lontano in realtà è molto vicino, e non dimentichiamo che dalla Nigeria passa anche il grosso traffico di droga, il traffico anche di essere umane, come per esempio la prostituzione, insomma, che dilaga in molti paesi. Quindi noi richiamiamo l'Europa, la comunità internazionale, a poter guardare bene cosa sta succedendo in quella zona, perché influenza tutta la geopolitica dell'Africa. Abbiamo lanciato dicendo stop Boko Haram, perché è questa setta appunto terrorista, che significa l'educazione occidentale è peccato, deve essere fermato. Per l'ennesima volta vengono utilizzati i civili come arma da guerra, e quindi insomma noi ci dobbiamo opporre a questa, partendo da qui, per dire che attenzione, ciò che noi pensiamo un conflitto dimenticato in realtà non è tanto diverso da quello che stiamo vedendo in tutte le altre zone vicine a noi. Quindi che cosa può fare l'Europa concretamente? In questo momento noi quello che stiamo chiedendo non è aiuto in termini di soldi, cioè, ma è quello di esercitare pressione per stimolare la volontà politica e fermare il terrorismo in questa zona. Quindi un sostegno, perché militarmente e anche sono già delle organizzazioni in atto, sia dell'Unione Africana che dei paesi vicini, questo è già in atto. Quindi l'Europa può affiancare, sostenere e rafforzare una risposta globale, e quindi una risposta e una strategia globale per riuscire a combattere il terrorismo in Nigeria e come in tutte le altre zone. Quindi non va affrontata soltanto settorialmente, ma va affrontato comunque all'interno di una strategia globale, e Boko Haram deve essere inclusa all'interno di questa strategia contro il terrorismo. Quindi è una sfida globale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. E prima della prossima pausa volevo leggere alcuni tantissimi messaggi che stanno arrivando sui vitalizi ai politici corrotti, che, sul quale stanno incalzando molto i presidenti delle due camere, Grasso e Boldrini. Qualcuno dice, vabbè, è una domanda ovvia, ma come ti viene in mente? È una cosa che sta uscendo prepotentemente, diciamo, in queste ore, quindi parliamone, se qualcuno anche da argomentare in modo diverso. Vedo anche, insomma, dei commenti articolati. Riccardo dice, è inaccettabile erogare vitalizi, punto e basta. Gilberto, dipendesse da me toglierei i vitalizi. Irene scrive sulla pagina Facebook di Effetto Note, d'accordissimo, non solo inaccettabile, anche ridicolo. Gio scrive, prima di Boldrini ne hanno già detto in tanti, ma deve sempre stare sui titoli Boldrini. Vabbè, insomma, Andrea in questo modo, comunque la Presidente della Camera. Andrea dice, arriva tardi la Boldrini, 5 Stelle hanno proposto mozione per eliminare i vitalizi e condannati, ma guarda un po', tutti i partiti hanno votato contro. Franco scrive, ma basta con questi soprusi dei vitalizi. Alberto, è inaccettabile il vitalizio e doppiamente lo è nei confronti di chi ha la fedina penale sporca, ma che parliamo a fare? Le leggi se le fanno da soli. Sergio scrive che l'abbia detto la Boldrini, come del resto tanti politici, è vero. Il problema è che poi, quando arriva il momento di votare il decreto legge, chissà perché non passa. Del resto poi i vitalizi andrebbero tolti per tutti e non solo per i condannati, dice Sergio. Paolo è l'unico che si dice non d'accordo col togliere i vitalizi a politici corrotti o condannati o indagati. Salvatore dice d'accordissimo. Michele, abolire il vitalizio a tutti. Fina dice certo che siamo d'accordo, ma per noi mettere in pratica questa legge, per metterla in pratica quanto tempo deve passare, si chiede Fina. Nino, forse è la prima volta che la sento che sento dire qualcosa di sensato alla Boldrini. Via Nino. Vandro dice, ma voi venite dal vecchio mondo dove si premiavano i meritevoli, i buoni degli onesti, non è mica più così, siamo nell'era dell'Italia 2000, che è uno stato di M. Massimo dice, la Boldrini è una bandiera e come sventola. Giancarlo, finalmente la Boldrini con una dichiarazione sensata. E via, tantissimi altri messaggi, potete continuare a scriverli sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso gli sms al 349 238 6666. Poi man mano ovviamente affronterò diversi altri argomenti. Dovremo raggiungere tra poco anche l'avvocato difensore di Massimo Bossetti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sto leggendo sempre i vostri messaggi, Roberta Giordano sempre con voi, a proposito dei vitalizi di questa campagna, diciamo così, che stanno portando avanti i due presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, dicendo che già vale la legge Severino, mentre il giudice emerito della Consulta Mirabelli dice che no, che bisogna formulare una nuova legge. Continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e poi al 349-238-6666. Dice Massimo, è ovvio che bisogna abolirli questi vitalizi, ma quando si farà qualcosa? Ataru, dietrologia time, se come cittadino ho un carico pendente non posso partecipare a concorsi comunali, non dovrei neanche poter fare il politico, si evince che men che meno dovrei percepire un vitalizio. E poi Andrea, ok, per ora dopo le affermazioni che Camera e Senato fermino questo schifo, altrimenti restano parole al vento che fanno più male che bene alla già malandata immagine della signora Boldrini, così dice Andrea. Vabbè, continuate con i vostri messaggi, tra poco raggiungeremo l'avvocato difensore di Massimo Bossetti, però vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, se vi siete distratti, dimenticati, eccetera, quali sono state le notizie principali di questa giornata. Buona notizia per i conti pubblici italiani, l'Unione Europea promuove la manovra italiana, la legge di stabilità, anche se il commissario europeo Moscovici dice restano comunque degli squilibri. Rai Way, l'offerta di Mediaset per l'acquisto delle torri della Rai, ma il governo avverte l'azienda pubblica deve mantenere il 51%. Vitalizi e parlamentari condannati, per la Presidente della Camera Boldrini è una cosa inaccettabile, il Presidente del Senato Grasso dice si possono abolire senza legge. L'omicidio di Iara, la Cassazione conferma il carcere per Bossetti. Medicina, trapianto record a Torino, la prima volta al mondo, il trapianto su un 18enne per combattere il cancro di un bacino artificiale. Il maltempo con le pesanti perturbazioni al sud, due vittime, una Ischia e una Trapani. Per il calcio la Champions, con in campo le squadre straniere, poi ci aggiorneremo, e il primo ministro Tsipras che decide di bloccare il campionato greco per le troppe violenze. E adesso torniamo a parlare del delitto di Brembate, il caso della piccola Yara Gambirasio, la tredicenne che il 26 novembre del 2010 fu seviziata e lasciata morire tra le sterpaglie di Chignolo d'Isola, vicino Bergamo. I suoi resti poi furono trovati 3 mesi dopo, abbastanza vicino alla sua abitazione. Per questo delitto l'unico indagato è Massimo Giuseppe Bossetti, 44 anni, carpentiere di Mapello, che la notizia di oggi resta in carcere, perché così ha deciso la prima sezione penale della Cassazione. La Suprema Corte ha quindi bocciato il ricorso presentato dalla difesa di Bossetti contro l'ordinanza del riesame di Brescia del 14 ottobre 2014. Bossetti è in carcere dal 16 giugno 2014. Il ricorso della difesa di Bossetti sollevava in particolare un'eccezione procedurale, rilievo però bocciato dalla Cassazione, che ha così convalidato la custodia in carcere per Bossetti. Il legale di Massimo Bossetti e l'avvocato Claudio Salvagni, che saluto. Buonasera avvocato, bentornato. Buonasera. Quindi qual era questa eccezione procedurale, questa cosa che lei aveva sollevato e che non è stata accolta? Ma l'eccezione procedurale attiene alla utilizzabilità dei risultati sugli accertamenti, sulle tracce biologiche, no? Quindi l'accertamento del DNA, tanto per semplificare. La famosa prova Regina. La famosa prova Regina, esattamente. Noi sosteniamo che questa attività sia stata svolta in violazione delle norme procedurali e pertanto sia inutilizzabile. In sintesi, essendo un atto irripetibile, doveva essere svolto con lo strumento dell'atto irripetibile e invece è stato svolto con lo strumento della delega d'indagine. La cosa che mi lascia, come dire, un po' perplesso, ma per quello bisognerà attendere le motivazioni della Suprema Corte e vedere come argomenterà su questo punto, è che il procuratore generale stesso della Cassazione ha sostanzialmente ribadito la bontà delle tesi difensive, cioè ha accolto quello che abbiamo, le nostre doglianze, salvo poi concludere per il rigetto del ricorso, e la Cassazione, la Corte, ha quindi concluso poi per il rigetto del ricorso. Vedremo nelle motivazioni questo passaggio come sarà affrontato e come sarà risolto, perché potrebbe essere che un risultato che in questo momento appare negativo invece possa avere in sé degli elementi magari positivi. ma è troppo presto per dirlo. Avvocato Salvagni, allora, finora per le tesi accusatorie ci sono la cosiddetta appunto prova regina, la prova del DNA di Bossetti negli slip e sui leggings, sì, della ragazzina. Poi ci sono le telecamere che avrebbero ripreso quel giorno il furgone di Bossetti vicino alla palestra frequentata da Yara. Poi le ricerche sul suo computer, molte orientate alla ricerca di ragazzine tredicenni vergini, secondo gli inquirenti, che l'avrebbe cercate fino a poche settimane prima di essere fermato, di essere arrestato. Poi questa seconda, quella che loro considerano seconda prova regina, di cui avevamo parlato alcuni giorni fa, delle fibre isolate sui leggings di Yara che apparterrebbero ai sedili del furgone del carpentiere. E poi che cosa dice lei, avvocato Salvagni, di queste intercettazioni di cui si è parlato in questi giorni, che sarebbero avvenute nel carcere dove si trova Bossetti, secondo le quali qualche compagno di cella gli avrebbe detto confessa, che almeno ti danno qualche sconto di pena, e lui avrebbe detto rischierò l'ergastolo ma non confesso per la mia famiglia? Ha messo tantissima carne al fuoco, però cerchiamo di partire con ordine, sì, dalla fine dell'intercettazione. Cosa dire su questo? L'intercettazione ambientale, ci viene riferito di questa intercettazione il senso della frase, perché questo è quello che è trapelato. Ora io vorrei leggere la frase per intero, cioè l'interpretazione della frase non mi basta, perché vorrei capire che tipo di frase è stata pronunciata, le esatte parole, ma faccio osservare comunque una cosa, che le microspie sono state individuate sin dal giorno della stessa loro posizionamento, i detenuti si sono accorti che c'era qualcosa che non andava, perché c'era un ronzio fastidioso, e hanno scoperto queste microspie il giorno stesso del posizionamento. Figuriamoci se, pur sapendo della presenza delle microspie, potevano pronunciare frasi strane di questo tenore. Per me è soltanto una cosa molto suggestiva che è stata buttata lì proprio per spostare l'attenzione invece da temi di indagine molto importanti che sono ad oggi irrisolti. Prima di passare a questi, avvocato Salvagni, mi dica solo una cosa, ma lei non ha chiesto come avvocato difensore di poter ascoltare per intero queste intercettazioni? Al momento io non lo posso fare perché sono coperte da segreto istruttorio, ma la cosa meravigliosa è che l'avvocato difensore non può avere questo elemento dell'accusa, però è stato dato in pasto ai giornali, all'opinione pubblica, alle televisioni, con evidente documento per la difesa, però questo purtroppo è un processo mediatico e questa mediaticità, oltre a violare le regole, perché comunque pubblicare e dire delle cose riservate coperte da segreto è vietato, secondo me nuoce anche proprio grandemente alla difesa stessa. Lei parlerà quando con Massimo Bossetti? Io parlerò penso sabato. Che cosa gli dirà, che è andata così, insomma? Ma che quindi non sabato, ci sono gli arresti domiciliari? Sabato riesamineremo il tutto, so che Massimo è determinato e per me questo è fondamentale, importantissimo per il prosieguo. Questo si sta dimostrando un processo difficilissimo, ma non ne avevo dubbi. Dall'inizio sembrava che la sentenza fosse già scritta su questa pagina giudiziaria. Io mi sono studiato tutte le carte e ho più di un dubbio sulla correttezza di quello che ha fatto la procura, e credo che, anzi sono convinto che Massimo non sia il responsabile di questo delitto. Senta, ma questo DNA famoso come può essere finito quindi negli slip della piccola Yara? Guardi, prima di affrontare come potrebbe essere finito lì questo DNA, qualcuno mi deve spiegare perché questo DNA ha un aspetto che non torna, cioè perché il nucleare è attribuito a Ignoto 1 e successivamente a Massimo Giuseppe Bossetti, e perché in questa stessa traccia, in questo stesso esame, quindi non da un'altra parte, non c'è il mitocondriale di Massimo Bossetti. Cioè la scienza non può essere piegata alla bisogna, che non ci sia il mitocondriale deve avere una risposta. Se la scienza non sarà in grado di dare una risposta, per me questo è già sufficiente, perché si insinua il dubbio che anche il DNA nucleare sia sbagliato, perché non è che il DNA nucleare può viaggiare da solo, è un elemento molto, molto delicato, ma bisogna mettersi in testa che è vero che il DNA nucleare è la parte più importante per l'identificazione di una persona, ma il suo mitocondriale deve comunque combaciare, perché se non combacia vuol dire che c'è un errore. Quindi prima di dire come ci è andato, io voglio sapere se è giusto e se è il suo, perché poi se non è il suo allora si aprono altri scenari, insomma. È vero che di nuovo è stata aggredita la sorella gemella di Bossetti? È stata picchiata? Allora, questo è una notizia sicuramente vera, tanto che Laura Bossetti ha avuto un 30 giorni di prognosi, quindi ha tre costole rotte, se non ricordo male, quindi insomma ha ha avuto già un'aggressione seria. E questo la dice lunga su questa inchiesta, cioè è stato instillato troppo odio, cioè c'è stata un'operazione dei media che ha creato il mostro e buttato via la chiave della serratura del carcere ancora prima di fare un processo. Secondo me bisognerebbe ricondurre e abbassare tutti quanti un po' i toni. Allora, Massimo Bossetti non è ancora stato rinviato a giudizio, secondo lei quando si dovrebbero chiudere le indagini? Ma da indiscrezioni sembrerebbe che le indagini dovrebbero chiudersi veramente a giorni, se non a ore. E dopodiché inizierà tutta la trafila per arrivare all'udienza preliminare ed eventualmente successivamente all'udienza preliminare il processo. Bene, allora avremo modo di risentirci se vorrà, avvocato Salvagni. Volentieri. Grazie, grazie tanto. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Aggiorniamo chi viaggia adesso. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso gli SMS al 349-238-6666 sui vitalizi, visto che appunto se ne sta parlando in maniera crescente in Senato, in particolare con il Presidente Grasso e la Presidente della Camera Boldrini. Anna dice: è una vita che dicono di voler abolire i vitalizi per i condannati, basta parole, parole lo facciano e basta. Ancora altri messaggi, sono tantissimi anche sulla pagina di Effetto Notte. Enrico dice: come se le leggi le hanno votate degli alieni, le leggi le fanno loro, volendo potrebbero toglierlo domani. Fa figo dirlo, dice, ma non farlo. Questo è il commento di Enrico. Allora, vi ricordo quali sono, se avete acceso la radio in questo momento, le notizie principali, poi passiamo ad altri temi. E allora sicuramente in primo piano c'è Mediaset che vuole Rai Way, le torre di Rai Way, ma è stop da parte del governo che dice il Ministero dell'Economia deve mantenere il 51%. L'Unione Europea promuove la manovra italiana, l'ultimo avviso invece viene dato a Parigi che è rimandata. Il Ministro dell'Economia Padoan dice: questo è un premio per le nostre riforme. E poi l'ho detto, Grasso Boldrini che dicono: aboliamo i vitalizi e i corrotti, bisogna revocare gli assegni in base alla legge Severino. Renzi, per quanto riguarda la politica, che chiama raccolta i suoi del PD, voglio delle idee, non delle correnti. Ci sono tensioni soprattutto con la minoranza democratica su Rai e decreti, con Bersani che dice ormai siamo al limite. E poi la Roma che ritrova domani il Feyenoord dopo le famose devastazioni nel cuore di Roma degli hooligans olandesi. Ci sono nuove minacce degli hooligans. Intanto il primo ministro greco ferma per troppa violenza fra i tifosi il campionato di calcio greco. Nuova frana per il maltempo a Ischia, un morto travolto mentre controllava i danni della pioggia. E poi parlavamo di questo trapianto record a Torino di un bacino artificiale che è stato trapiantato a un 18enne per battere il tumore della prima volta al mondo. E ora abbiamo il nostro Paolo Corazon di Trebi Meteo. Ciao Paolo. Ciao, buonasera Roberta, eccomi. Con te vorrei parlare di maltempo, purtroppo, perché continuano perturbazioni pesanti al sud. Uno dice inverno, è normale, però soprattutto Ischia si trova in grave difficoltà. Ci sono state varie frane e anche un morto a Trapani e un ristoratore a Ischia che stava cercando di capire quali fossero i danni al suo locale ed è stato schiacciato da un masso che è franato. Quali sono quindi le previsioni, Paolo, per le prossime ore al sud? Guarda, purtroppo in effetti il sud Italia continua a essere martellato da queste perturbazioni. Ho anche controllato i quantitativi di pioggia che sono caduti sul sud nelle ultime settimane. Proprio nella zona di Ischia abbiamo raggiunto i 400 mm di pioggia. Ora, per i più sono numeri che non voglio dire nulla, ma per farvi un paragone, in un anno dovrebbero caderne circa 1000, in meno di un mese ne sono caduti 400, quindi sono quantitativi in effetti importanti. E purtroppo fino alla giornata di sabato il sud Italia continuerà a essere bersagliato da questo passaggio di perturbazioni piuttosto intense, con nuovi acquazzoni e nuovi rovesci. Ma al di là poi del della previsione in sé o dell'episodio in sé. Purtroppo l'Italia, vista anche alla luce dei cambiamenti climatici che sono in atto ormai anche nel nostro paese, con eventi del genere ha a che fare con maggior frequenza. Ora non sono eventi proprio così eccezionali, però sono quantitativi importanti, il nostro territorio è molto delicato, quindi o ci si mette di buzzo buono e ci si dà da fare per la salvaguardia del territorio, delle vite umane e quant'altro, oppure temo che episodi del genere saranno, non dico all'ordine del giorno, ma diventeranno particolarmente frequenti, quindi c'è bisogno di una politica molto più attenta nei confronti dell'ambiente in un paese come il nostro che già di per sé, come dicevo, è molto delicato. Fa bene ricordarlo, Paolo Garzon, è la prima volta che lo dici. Tra l'altro vedo che il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede il persistere di precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, come hai detto tu, quindi insomma allerta da parte della Protezione Civile. Paolo Corazon, ti ringrazio, ti saluto, ci dovremo risentire poi venerdì, intanto grazie per sapere per il fine settimana. Ciao Paolo. Ciao, buona serata. Ora invece ci spostiamo sullo sport, sul calcio da vari punti di vista con Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao, ciao Roberta, ciao a tutti. Intanto ci aggiorni sulla Champions League, poi passiamo invece al tema Tsipras. Sì, siamo intorno al 70° di gioco, sia a Leverkusen dove il Bayern e l'Atletico Madrid sono ancora sullo 0-0, sia a Londra dove il Monaco è in vantaggio un po' a sorpresa sull'Arsenal, la redi finora decisiva al 38° di Kondogbia, un tiro deviato da un difensore inglese, quindi Monaco in vantaggio per 1-0 sull'Arsenal a Londra. Senti, invece l'altra cosa particolare, che non è soltanto una questione di calcio, ben più ampia, è la decisione di Tsipras, primo ministro greco, e la Grecia sappiamo che è al centro dell'attenzione di tutta l'Europa e non solo, che ha deciso di sospendere il campionato di calcio della sua nazione. È sì, possibile questa cosa? Cosa comporta e perché? La massima serie, soprattutto la Serie A, quindi ancora più importante. Beh, diciamo che hanno pesato su questa decisione gli incidenti in due derby giocati appena domenica, quello storico tra Panathinaikos e Olympiakos, che di solito hanno due tra le tifoserie più accese d'Europa, uso un eufemismo, e che se le danno spesso di santa ragione anche intorno al campo di basket, e poi quello tra il Larissa e l'Olympiakos Volu, così come incandescente era stata la riunione del Consiglio della Super League appena ieri praticamente, quindi una somma di fattori che ha portato la Federcalcio, di fatto è importante sottolineare questo aspetto, perché ci fosse stato un diretto intervento politico si sarebbe caduto in un cono d'ombra che avrebbe messo parecchio in difficoltà con UEFA e FIFA, la stessa Federcalcio, perché UEFA e FIFA non tollerano intromissioni dirette della politica, giusto che sia così, nella gestione dei fenomeni calcistico-sportivi, per cui la Federcalcio ha chiaramente deciso questa sospensione in pieno assenso però con le autorità governative. Tsipras ha dato chiaramente il suo consenso. Adesso c'è il 2-0 del Monaco, tra l'altro, tanto per mentre ci aggiorni. C'era un ascoltatore, ora non riesco a trovare il suo messaggio, che dice: ecco, è una cosa che di cui si è parlato varie volte anche in Italia, probabilmente qui non c'è il coraggio. Ricordiamo che il campionato venne fermato per una, in questo caso la sospensione per il momento è a tempo indeterminato, chiaramente in Grecia è una decisione, che questa del tempo indeterminato, della sospensione a tempo illimitato, che chiaramente viene utilizzata come forte deterrente, non credo che si andrà ad una pausa di moltissime giornate. Rimane però un avvertimento, tu esattamente dici, rimane il fatto che in Italia, lo ricordiamo, per la tragica uccisione dell'ispettore Raciti, il campionato venne poi immediatamente sospeso. Sicuramente non ci sono molti altri episodi, ricordo poco prima dei recenti mondiali del Brasile che la stessa decisione era stata presa dal presidente dell'Uruguay Mujica per quanto riguardava le squadre della zona di Montevideo, che di fatto sono, essendo il paese sudamericano piuttosto piccolo, la quasi totalità della massima serie. Dario, quindi, prima di lasciarci, ci ricordi che domani, in questo ultimo minuto che ci rimane, c'è il ritorno di Roma a Feyenoord. sì, domani Rotterdam. Ritorno di Roma Feyenoord a Rotterdam, massima allerta, così come grande attenzione anche per la discesa dei tifosi inglesi del Tottenham a Firenze per il ritorno di Fiorentina Tottenham, quindi sono sicuramente due partite a cui le autorità prestano grandissima attenzione, soprattutto quella di Rotterdam, senza dimenticare che poi lunedì a Roma c'è Roma-Juventus, anche lì 1600 agenti già pronti ad intervenire. Robe da matti, tanta forza di polizia così sprecata. Grazie Dario Ricci, intanto ringrazio Luca per il suo messaggio, per i messaggi, però mi devo fermare qui, ci sentiamo tra pochino.